Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Quella che è definita sonno dell'anima, peraltro impropriamente, è una delle tante eresie escatologiche che imperversano sulla faccia della terra. Ce ne sono molte di eresie che concernono, le cose ultime. E questa del sonno dell'anima è una di queste. Che cos'è che sostengono coloro che la insegnano? Tenete presente che la insegnano tante sette, tra cui gli avventisti del settimo giorno, i testimoni di Geova, e anche diffusa anche in ambito protestante. Ci sono dei circoli protestanti che appunto la sostengono. Come anche viene sostenuta da una piccola frangia di pentecostali. Sì, pure tra i pentecostali c'è qualcuno che sostiene il cosiddetto sonno dell'anima. Ora, coloro che la insegnano questa eresia, che cosa dicono? Innanzitutto loro negano l'esistenza di un'anima immortale all'interno del corpo umano. Cioè, loro dicono, l'uomo è un'anima, ma non possiede un'anima. E questo loro lo dicono appoggiandosi su alcuni versetti della Sacra Scrittura, dove effettivamente le persone vengono chiamate anime. Allora loro, naturalmente, sfruttando questo, sono arrivati a dire appunto che l'uomo è un'anima, ma non ha un'anima. Peraltro vi voglio citare, brevemente uno di questi versetti. Per esempio, loro citano in Secondo Pietro, dove loro citano delle scritture dove appunto le persone vengono chiamate anime, e ce ne sono diversi di queste scritture. Diciamo che la principale che loro prendono è questa, è scritta nella Genesi, quando la scrittura dice l'Eterno il Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Il versetto che volevo citarvi è negli Atti degli Apostoli, dove appunto ci sono dei versetti dove le persone vengono proprio chiamate anime. Allora bisogna stare molto, molto attenti. Perché? Perché voi sapete che la scrittura è la parola di Dio ed è ispirata da Dio. E bisogna prestare molto attenzione a questo, perché il Dio nella scrittura ci ha messo delle pietre d'inciampo, sì, proprio delle pietre d'inciampo, come le mise anche nella legge, così le ha messe nei profeti, nei libri dei profeti, e poi le ha messe anche nei scritti del Nuovo Testamento. Queste pietre d'inciampo praticamente sono dei versetti che servono, tra le altre cose, per fare inciampare coloro che sono destinati a inciampare. Quindi, quando si studiano per esempio le sette, Questo si nota molto, cioè veramente è una cosa che, in cui sono incappato tante volte, nel vedere che prendono un versetto della scrittura, non considerando tanti altri versetti, e da quel versetto della scrittura deducono cose, cose errate, totalmente errate. Facciamo un esempio. Quando i testimoni di Geova dicono che Gesù non è Dio ma una creatura, non è forse vero che loro si appoggiano a un versetto della scrittura? Quello che dice il Padre maggiore di me? Ecco, loro prendono queste parole per sostenere che Gesù quindi non può essere Dio. Quindi dovete stare molto attenti perché anche in questo, diciamo, nel caso della dottrina del sonno dell'anima, quelli che la sostengono vi presentano dei versetti della scrittura dove effettivamente nessuno nega che nella Bibbia, le persone proprio nella loro interezza vengano definite anime. Però bisogna prendere anche altri versetti della scrittura i quali appunto dicono chiaramente che l'essere umano è formato dal corpo, dall'anima e dallo spirito. Attenzione! Quindi è vero che l'essere umano è chiamato dalla scrittura anima vivente, anima, però è altresì vero che l'essere umano ha un'anima, come ha un corpo. Quindi il corpo non è l'anima e l'anima non è il corpo. Peraltro l'essere umano ha anche uno spirito. Allora, quando si affrontano le false dottrine, quello che si comprende è questo, che esiste uno spirito di menzogna che appunto fa intoppare le persone che leggono la Bibbia, le fa intoppare nella parola. E quello che noi, diciamo, grazie a Dio, diamo per scontato, come appunto l'immortalità dell'anima, queste persone praticamente lo combattono, lottano contro la dottrina dell'immortalità dell'anima. Peraltro sempre dicendo, diciamo, che la parola immortalità non c'è, l'immortalità dell'anima, l'espressione non c'è nella Bibbia. È vero che non c'è l'espressione immortalità dell'anima, ma c'è il concetto che l'anima è immortale mentre il corpo, questo nostro corpo, è mortale. Dunque loro dicono che l'uomo non ha un'anima immortale, quindi loro cosa fanno costoro? Identificano l'anima con il corpo, quindi in questa maniera negano che l'anima sia una parte dell'essere umano differente dal corpo e infatti non sopportano sentire dire che l'anima al momento della morte si diparte dal corpo. Allora, la morte come la spiegano loro? La spiegano in questa maniera. Loro dicono che quando l'uomo muore entra in uno stato di incoscienza. Per loro, infatti, con la morte la persona si addormenta, attenzione, si addormenta ed entra in un profondo sonno in attesa della resurrezione. Questo vale naturalmente sia per i giusti che per i peccatori. Qualcuno dirà, ma allora niente paradiso, niente inferno? Assolutamente, niente paradiso e inferno per costoro. Con la morte finisce tutto, in attesa poi della resurrezione. Allora ecco perché viene chiamata sonno dell'anima, perché per loro l'anima, che per loro è il corpo, praticamente si addormenta. Ora anche qui lo stesso discorso di prima. È vero, nella Sacra Scrittura la morte viene descritta come un sonno, o meglio, quando una persona per esempio muore si dice che si è addormentata, non sempre, però diciamo in alcune circostanze viene detto, per esempio di Stefano, quando Stefano morì, la Scrittura dice: detto questo si addormentò. Vedete? Ma perché diciamo la scrittura usa questa espressione? Perché effettivamente quando l'uomo muore è come se si addormentasse. Si vede la persona appunto che è come che se si addormentasse. Allora, ecco perché vi dico state molto attenti, perché ci sono certi versetti della scrittura che se presi isolatamente possono poi indurre a accettare false dottrine. Quindi Stefano si addormentò, questo è vero, ma non possiamo dire che Stefano non aveva un'anima immortale che si dipartì dal corpo e andò ad abitare con il Signore. Questo non si può dire, perché questo è la verità, cioè la verità è che l'uomo ha un'anima immortale e il giusto, come vedremo, quando muore, la sua anima si diparte dal corpo e va ad abitare con il Signore. Quindi vedete lo stesso discorso che ho fatto prima, la scrittura chiama l'uomo anima vivente e allora diciamo questi eretici sostengono che l'uomo non ha un'anima, la stessa cosa per quanto riguarda la morte, la scrittura dice Stefano si addormentò, ecco che allora loro naturalmente collegano le cose e dicono ecco quell'anima si addormentò, capite? Ecco perché viene chiamata sonno dell'anima, sonno dell'anima, impropriamente perché loro effettivamente, costoro negano l'esistenza dell'anima, perché non si può chiamare il corpo anima, come non si può chiamare l'anima il corpo, sono due parti dell'essere umano ben distinte. Allora, veniamo adesso alla confutazione di questa eresia, lo faremo naturalmente sempre usando le sacre scritture che sono la parola del Signore. Allora, che cosa troviamo scritto in Matteo? Matteo capitolo 10, prendete Matteo capitolo 10, così almeno mettiamo subito in chiaro quello che dice la Sacra Scrittura sulla distinzione che c'è tra il corpo e l'anima. Capitolo 10, versetto 28 di Matteo. Ascoltate, queste sono parole di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Gesù dice, non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Ora, come voi potete vedere, Gesù ha fatto una netta distinzione tra il corpo e l'anima, non ha identificato il corpo con l'anima e viceversa, assolutamente, tiene ben distinti Gesù il corpo e l'anima. Ora ricordiamoci sempre che Gesù è il Figlio di Dio, colui che è venuto nel mondo per volontà di Dio e ha detto ciò che il Dio Padre gli ha comandato di dire. Quindi queste sono parole di Dio. Allora, noi non dobbiamo temere chi? Coloro che uccidono il corpo. Chi sono? Gli uomini. Allora, gli uomini quindi possono uccidere il corpo. Possono porre fine, diciamo, alla vita del corpo uccidendolo, ma attenzione, gli uomini non possono uccidere l'anima, quindi vedete, il corpo non è l'anima, l'anima non è il corpo, vedete perché erano grandemente costoro? Erano grandemente, guardate che questo discorso, quando incontrate i cosiddetti testimoni di Geova, glielo potete fare per turargli la bocca, anzi glielo dovete fare. Allora, Gesù ha detto, temete piuttosto colui che può far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Vedete che Gesù, diciamo, li cita separatamente, perché effettivamente sono due parti dell'essere umano differenti, come lo è anche lo spirito. Allora, queste parole sono fondamentali per confutare, diciamo, coloro che insegnano il cosiddetto sonno dell'anima, perché fanno una netta distinzione tra il corpo e l'anima. Ricordatevelo sempre che c'è una netta distinzione tra il corpo e l'anima. Peraltro c'è un versetto nella Sacra Scrittura e lo troviamo in... Allora, lo troviamo nell'epistola, Allora, troviamo nell'epistola ai Tessalonicesi, nella prima epistola, al capitolo 5. Allora, capitolo 5, al versetto 23, or l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Notate come appunto il nostro essere sia formato dallo spirito, dall'anima e il corpo. È chiaro. Quindi state molto attenti a coloro che appunto non fanno distinzione tra il corpo e l'anima, perché identificano l'anima con il corpo. Allora adesso passiamo a, una volta dimostrato che l'anima è immortale, questo nostro corpo invece è mortale, infatti noi aspettiamo la resurrezione dei morti, abbiamo questa speranza che Dio ci ha dato, che è una buona speranza, quando il nostro corpo sarà trasformato, sarà reso conforme al corpo glorioso del nostro Signore Gesù Cristo. Noi infatti, quando risusciteremo, avremo un corpo immortale. Adesso è mortale, tu sei polvere, in polvere tornerai, lo sapete, noi siamo fatti di polvere. Ma viene il giorno in cui noi risusciteremo, noi che appunto coloro che muoiono in Cristo risusciteranno e avranno un corpo immortale, quindi che non muore più. Però al momento attuale il nostro corpo è mortale. Può morire, quindi può essere ucciso. Per esempio, il corpo di Gesù era mortale, poi quando risuscitò, mediante la potenza di Dio, diventò immortale. Infatti, la scrittura dice in Romani dice, dice sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. E così anche quando i morti in Cristo in quel giorno risusciteranno, essi non morranno più. Non morranno più, fratelli, perché? Perché il mortale sarà rivestito dall'immortalità. Allora, vedete, sono molto importanti le parole di Gesù. Quindi il nostro corpo è mortale, la nostra anima è immortale, infatti non può essere uccisa. Quanti nostri fratelli sono stati uccisi nel corso dei secoli a motivo dell'Evangelo? Sì, sono stati uccisi, ma il loro corpo è stato ucciso, ma non la loro anima. La loro anima ha continuato a vivere, infatti si è dipartita la loro anima ed è andata ad abitare con il Signore, perché questo appunto è un punto fondamentale che va sempre sottolineato. La vita del credente, la vita fisica del credente finisce con la morte. Ma non è che il credente finisce di esistere del tutto, in una maniera più assoluta, perché c'è una vita al di là della morte, appunto, è una vita, di gran lunga migliore di questa, perché coloro che muoiono in Cristo si dipartono dal corpo e vanno ad abitare in cielo, nel regno celeste, con il Signore Gesù. E quindi, fratelli del Signore, vediamo adesso, che cosa appunto dice la Sacra Scrittura su quello che accade ai coloro che muoiono in Cristo, sempre naturalmente per dimostrare che il cosiddetto sonno dell'anima è una menzogna. Prendiamo l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, chiamato anche il libro della Rivelazione. Allora, libro dell'Apocalisse. Al capitolo capitolo 6, è Giovanni che parla. Voi sapete che questa rivelazione, la rivelazione di Gesù Cristo, Giovanni la ebbe mentre era sull'isola di Patmo a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Sono parole fedeli e veraci quelle che lui ha scritto, le ha scritte per ordine del Signore, quindi poniamo attenzione a quello che lui dice. Capitolo 6, Apocalisse, dal versetto 9. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce, dicendo: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun d'essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che hanno ad essere uccisi come loro. Allora, ascoltate qua, che hanno ad essere uccisi come loro, quindi costoro, di cui Giovanni vide le anime sotto l'altare, erano stati uccisi, come vi ho detto, il corpo può essere ucciso. Allora, costoro furono uccisi, per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Quindi morirono. Se c'è scritto che furono uccisi, vuol dire che morirono. Ma che cosa dice? Che cosa dice Giovanni? Che vide le anime di costoro. Le anime di costoro. Allora, il corpo di costoro era rimasto sulla terra. Ma Giovanni vide che in cielo c'erano le anime di costoro, ed erano sotto l'altare, l'altare è in cielo. E non solo vide le anime di costoro, ma le sentì pure gridare con gran voce. Quindi erano in cielo questi nostri fratelli, con la loro anima. E dicevano: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Vedete? Fecero questa domanda al Signore. E a ciascuno di essi fu data una veste bianca. Quindi furono rivestiti. E fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Quindi si stavano riposando. Infatti in cielo non si lavora. Non ci si stanca in cielo ci si riposa, infatti i santi in cielo si riposano dalle loro fatiche, perché entrano nel riposo di sabato, nel riposo di Dio. Allora, gli fu detto che si riposassero ancora un po' di tempo, ancora un po' di tempo, perché doveva completarsi il numero appunto di coloro che dovevano essere uccisi come loro. Notate che c'è quindi un numero stabilito da Dio di credenti che devono essere uccisi a motivo della parola. Lo so, queste cose non sono gradite a coloro che ingannano le anime, a coloro che sfruttano le anime con parole seducenti. Perché? Perché sono parole che mettono paura all'uditorio, ma queste sono parole del Signore, e queste parole naturalmente fanno riflettere e fanno capire che non tutti i credenti moriranno di morte naturale, no? Come si suol dire, di vecchiaia, sempre naturalmente al tempo stabilito da Dio, perché ci sono, tra tutta la massa di credenti sulla faccia della terra, ci sono coloro che Dio ha stabilito devono essere uccisi a motivo della parola di Dio. Comunque, Gesù l'ha detto: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Sì, perché costoro, vedete, furono uccisi, no? I loro corpi furono uccisi, però le loro anime? Le loro anime non furono uccise, infatti si trovavano presso l'altare, lassù nel cielo. Vedete dunque, fratelli, questo che cosa conferma? Conferma che quando i credenti muoiono, a prescindere che, di una malattia o uccisi a motivo della parola, questo conferma che i credenti, quando muoiono, hanno un'anima che si diparte dal corpo e va ad abitare con il Signore. Ma questo è quello che credevano gli apostoli e che predicavano gli apostoli. Quando l'apostolo Paolo, alla fine dei suoi giorni, disse, osservato la fede, vi ricordate alla fine della sua seconda epistola a Timoteo, cosa gli disse anche? Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Certo, il fine della fede è la salvezza dell'anima. Quindi noi abbiamo questa fede, che è certezza di cose che si sperano, che quando moriremo il Signore salverà l'anima nostra nel suo regno celeste. Il corpo rimarrà qua, sì, si decomporrà, sarà seppellito, però la nostra anima per la grazia di Dio, sì, sempre per la grazia di Dio, sarà salvata dal nostro Signore, sarà salvata nel suo regno celeste. Ed è per questo che gli apostoli avevano molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perché l'apostolo Paolo infatti diceva queste parole? Avete mai riflettuto? Perché lui sapeva dove stava andando. Sapete, quelli che sono nelle tenebre non sanno dove stanno andando. Invece coloro che sono nella luce sanno dove stanno andando. Diceva Paolo, per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Partire da dove? Partire dal corpo, perché appunto quando uno muore si diparte dal corpo, parte. È come quando uno parte e va in un altro posto, no? Ecco, quando si muore uno parte da questo corpo e va ad abitare con il Signore nel regno celeste, perché vedete, aveva questo desiderio lui, perché dice cosa di gran lunga migliore, non semplicemente migliore, ma di gran lunga migliore. Ma infatti, fratelli del Signore, il paradiso è un luogo meraviglioso, è appunto il regno celeste del nostro Signore, dove appunto egli appunto salva coloro che sono suoi. E là naturalmente c'è il trono di Dio, là c'è il figliuolo di Dio alla destra della maestà, e poi ci sono gli angeli, e poi ci sono i cherubini, e poi ci sono tutti i santi che sono morti. Infatti poi quando noi andremo ad abitare con il Signore, poi riconosceremo coloro che sulla terra abbiamo incontrato, abbiamo conosciuto e che erano nella fede, ma riconosceremo naturalmente anche Abramo, Isacco, Giacobbe, il profeta Isaia, il profeta Geremia, li riconosceremo, Dio farà sì che appunto noi li riconosciamo. E allora, fratelli nel Signore, vedete, l'apostolo Paolo aveva proprio il desiderio. E questo è il desiderio che hanno avuto tutti i santi, che hanno tuttora tutti i santi. E poi cosa dice Paolo ai santi di Corinto? Vi ricordate queste meravigliose parole che sono di grande veramente incoraggiamento per tutti noi? Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, non per visione, ma siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ed è perciò che ci studiamo ad essergli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Vedete, qui ancora si parla di una dipartenza dal corpo. E Paolo dice, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ma appunto, che cos'è che parte dal corpo? Allora, il corpo rimane, si capisce, no? Se uno parte dal corpo, vuol dire che il corpo rimane sulla terra. Parte l'anima, sì, l'anima. Così tanto denigrata da queste sette e da tanti altri stolti che si credono savi, intelligenti e che che appunto tirano fanno sempre la solita, il solito discorso pomposo, che loro non credono a questa suddivisione tra corpo e anima, no? Perché poi fanno tutto un discorso filosofico, pensando di ingannare tutti, ma non riescono ad ingannare tutti, perché il Signore preserva i suoi. Non è meraviglioso questo, fratelli nel Signore? Il Signore ci ha preservati, a quando io penso al passato, fratelli. Ah, quante volte il Signore mi ha preservato! Ah, è meraviglioso, meraviglioso. Il Signore mi ha preservato così tante volte dalle false dottrine, ma sin dall'inizio, proprio veramente posso raccontare la gloria di Dio come il Signore mi ha messo veramente al riparo nel suo tabernacolo, mi ha preso veramente, mi ha messo da parte e mi ha impedito di accettare, diciamo, queste false dottrine. Appunto vi stavo dicendo che questi qua generalmente fanno questo discorso che al pensiero, diciamo, biblico è totalmente estraneo all'idea, no, greca di un dualismo anima-corpo. Si fanno sempre tutti questi discorsi, no? Come se appunto noi cristiani avessimo adottato questa dottrina dai greci, no? Come se noi l'avessimo, diciamo, dalla filosofia greca, ma andassero a leggere veramente le sacre scritture. Costoro sono una massa di ignoranti, lo posso dire, perché ho letto veramente trattati di queste sette contro l'immortalità, posso dire che i loro discorsi sono tutti infarciti di concetti tutti espressi in maniera pomposa, ma sono vuoti, discorsi che vanno contro la parola di Dio. La parola di Dio distrugge tutti questi loro discorsi, ma proprio li distrugge fin dalle fondamenta. Allora, vedete dunque gli apostoli come parlavano? Avevano molto più caro di partire dal corpo. Meraviglioso questo. Questa appunto è la conferma che ciò che partirà dal nostro corpo ed andrà ad abitare con il Signore è la nostra anima. Quindi, fratelli nel Signore, dato che siamo salvati mediante l'Evangelo, la nostra anima è salva mediante l'Evangelo. Studiamoci di ritenere l'Evangelo che ci è stato annunziato così come lo abbiamo ricevuto, per poter così appunto in quel giorno essere salvati dal Signore nel suo regno celeste. E dunque vedete come dunque la Sacra Scrittura conferma l'uomo, in questo caso il credente, ha un'anima che quando muore si diparte dal corpo e va ad abitare con il Signore. Ma veniamo adesso alla sorte che attende le anime dei peccatori. Eh sì, perché sulla terra ci sono coloro che sono appunto annoverati tra i giusti, sono coloro che sono giustificati per la grazia di Dio, mediante la fede nell'Evangelo della grazia di Dio, ma ci sono anche coloro che non credono nell'Evangelo, quindi non hanno la fede, quindi sono sotto il peccato. Che cosa li aspetta a costoro? Agli increduli, che fine li aspetta? La perdizione. Anche loro hanno un'anima, ma la loro anima, quando essi muoiono, non si diparte dal corpo per andare con il Signore, ma si diparte dal corpo per andare in un luogo di tormento. Avete capito cosa dice la Sacra Scrittura? Esiste un luogo tormento. E vedete, oggi molti diciamo, non credono all'esistenza di questo luogo di tormento. Non ci credono, voi sentite parlare pochissimo di questo luogo di tormento. Perché? Perché molti non ci credono. È triste. Però la verità è questa. E allora dove vanno appunto gli increduli? Gli increduli vanno appunto in un luogo di tormento chiamato Hades. Hades è un termine greco che designa appunto il soggiorno dei morti, un luogo appunto invisibile, nell'aldilà, invisibile a questi nostri occhi, ma è esistente, che esiste, è un luogo reale, un luogo di tormento dove arde il fuoco. Sì, dove arde il fuoco. Quindi non un fuoco allegorico, non un fuoco metaforico come insegnano i bugiardi, no, un fuoco reale. E questo appunto è quello che si apprende leggendo la storia del ricco e Lazzaro. Una storia raccontata da Gesù e che diciamo, è una prova inequivocabile, inconfutabile, diciamo, che conferma l'esistenza di un'anima immortale all'interno del corpo umano, ma nello stesso tempo conferma che l'anima dei peccatori va in questo luogo di tormento, comunemente diciamo conosciuto con il termine di inferno. Sì, le anime dei peccatori vanno all'inferno, non in paradiso, non nel regno dei cieli, come vorrebbero far credere gli universalisti. Quelli che dicono che alla fine Dio salverà tutti. No, Dio non salverà tutti alla fine. Dio salverà coloro che sono suoi. Perché Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Non ha detto che chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso, perché Dio è buono, Dio è amore. No, chi non avrà creduto sarà condannato. Ebbene, leggiamo nel capitolo 16 di Luca queste parole, capitolo 16, dal versetto 19, è la storia del ricco e del Lazzaro su cui ho predicato, insegnato tante volte e che non mi stanco mai di ricordare ai santi perché è fondamentale, questa è fondamentale la storia del ricco e Lazzaro. Ovvero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso e ogni giorno godeva splendidamente, e vero un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui pieno d'ulcere, bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulcere. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche ricco e fu seppellito nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora, qui egli è consolato e tu sei tormentato, e oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passar di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè, i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, padre Abramo, ma se uno va al luogo dei morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè, i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Ora, fratelli, questa storia è una storia molto importante. Molto importante, lo ribadisco, perché questa storia fa comprendere dove vanno le anime dei peccatori. Ora, dovete considerare che la maggior parte degli esseri umani che sono sulla faccia della terra sono appunto dei peccatori. sono sotto il peccato. E quindi questa storia ci fa comprendere dove vanno la stragrande maggioranza delle persone, in un luogo di tormento, nell'Ades. Questo uomo ricco, di cui non viene fatto il nome, morì nei suoi peccati, fu seppellito. Notate, che cos'è che fu seppellito? Il suo corpo. Però, dopo che c'è scritto fu seppellito, c'è scritto, e nell'Ades essendo nei tormenti, quindi non finì di esistere con la morte. Eh no, non finì di esistere con la morte. Molti fanno credere che appunto la vita finisce con la morte. Ma qui che cosa dice la Sacra Scrittura? Che nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi. Quindi, lui ebbe un funerale, ma fu portato, cioè fu scese, in un luogo di tormento. Un luogo di tormento perché c'era il fuoco. C'era il fuoco che ardeva, e c'è il fuoco che arde in questo luogo. E lui naturalmente avrebbe voluto un po' d'acqua, eh? O meglio, avrebbe voluto che Abramo mandasse Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua. Perché? Perché lui era tormentato nel fuoco. Era tormentato nel fuoco. Altro che fuoco metaforico, simbolico, allegorico, il fuoco è reale, il fuoco dell'inferno è reale. Molti ci scherzano, no, sull'inferno, sapete, no? Come ci scherzano, ci ridono sopra, raccontano le barzellette, ti ridono pure in faccia taluni quando gli predichi l'inferno, ma arriverà il giorno che costoro poi si renderanno conto che l'inferno esiste, e che all'inferno c'è il fuoco. Noi comunque abbiamo avvertito i peccatori dell'esistenza dell'inferno, di questo luogo di tormento, e li abbiamo avvertiti che se non si ravvederanno, se non crederanno nell'Evangelo, la loro anima andrà in questo luogo, appunto, che è un luogo di tormento. Quell'uomo lo chiamò così, luogo di tormento. E dunque, vedete, questa storia conferma che l'anima non è il corpo non è l'anima. Questa storia conferma che l'anima del peccatore si diparte dal suo corpo, ma invece di andare in un luogo di riposo, dove vanno coloro che muoiono in Cristo, la loro anima va all'inferno. Quindi ha voglia costoro a citare versetti come questo, che è scritto negli Atti, e Giuseppe mandò a chiamare Giacobbe suo padre e tutto il suo parentato, che era di 75 anni, vedete? Questo è il versetto appunto che volevo citarvi dagli Atti degli Apostoli prima. Voglio citare queste parole. Sì, 75 anime. Vengono chiamate così, anche così vengono chiamate le persone. Però cioè i loro ragionamenti si vanno proprio a infrangere contro la verità, cioè che appunto il corpo è distinto dall'anima e viceversa, e appunto l'anima si diparte dal corpo, nel momento in cui il corpo muore, ma mentre l'anima del giusto viene salvata nel regno celeste del Signore, che è un luogo di riposo, l'anima dell'empio, del peccatore, viene fatta da Dio discendere nell'Ades, in questo luogo di tormento, per esservi tormentata. Anche questo bisogna dire. All'inferno le anime sono tormentate, lì ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Oggi coloro che appunto ridono delle cose del Signore, no? Che ridono di noi, ci scherniscono, poi finiranno di ridere. Finiranno di ridere quando si ritroveranno in questo luogo di tormento. Eh? Prima ridevano, poi là piangeranno e faranno cordoglio. Quindi, fratelli nel Signore, avete notato come la Sacra Scrittura distrugge il cosiddetto sonno dell'anima? La Sacra Scrittura è la parola di Dio è verità e non si può fare nulla contro la verità. Ne ho letti così tanti di discorsi contro la verità, ma quanti ne ho letti per naturalmente confutarli, perché come fai altrimenti a confutare, come fai a confutare un discorso se non lo conosci? Come fai a confutare una falsa dottrina se tu questa dottrina non la studi prima? E mi sono sempre veramente imbattuto in discorsi fallaci, vani, assurdi, ridicoli, perché veramente davanti alla parola del Signore tutti questi discorsi crollano. Sono praticamente dei castelli di menzogne questi discorsi che fanno costoro che insegnano il sonno dell'anima, dei castelli di menzogne. Che appena veramente tu prendi la spada dello spirito, li distruggi, proprio cadono tutti questi castelli di menzogne cadono, e noi dobbiamo essere veramente grati a Dio perché il Signore ci ha fatto conoscere la verità, quando voi considerate che ci sono tanti che credono al cosiddetto sonno dell'anima, come peraltro ci sono quelli che credono invece nella reincarnazione, in altre eresie. Cioè ci rendiamo conto veramente che noi siamo stati graziati, ma possiamo gridarlo, il Signore ci ha graziati, ci ha veramente chiamati, ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, e noi vediamo la luce per la sua luce, e noi appunto dobbiamo essere sempre grati a Dio, sempre grati a Dio, fratelli, per averci fatto conoscere la verità. Perché molti non la conoscono la verità, non la conoscono anche in mezzo alle denominazioni evangeliche, molti non conoscono la verità. Quando li incontrate è come se voi parlaste con dei pagani che non conoscono Dio, perché costoro non conoscono la verità, e noi invece l'abbiamo ben conosciuta la verità per la grazia di Dio. Ed ecco perché noi dobbiamo sempre dire grazie Signore Dio, grazie per averci fatto conoscere la verità che è la verità di Dio, indistruttibile. Non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, infatti quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per la verità. Ci sono invece quelli che, diciamo, si impegnano molto contro la verità. Sono quelli i lottatori contro Dio. Sapete che il mondo è pieno di gente che lotta contro Dio e pensa addirittura di vincere. Fate pure questo. Lottano contro Dio perché pensano di vincere contro Dio. E Dio si deve piegare alla loro volontà. Oh, veramente, sentire queste cose, perché per loro non è Dio che fa forza all'uomo e lo vince, no, è loro che fanno forza a Dio e lo vincono, no? È gente così stolta, ottenebrata, che non connette, gli fai vedere un elefante e pensano che sia una formica, gli fai vedere una formica e pensano che sia un elefante, è gente che non connette, gente che non capisce niente, non capiscono proprio niente, e ce ne sono tanti. Allora, fratelli, veramente ringraziamo il Signore, ringraziamo, non vergogniamoci, non abbiamo paura di niente e di nessuno, ringraziamo Dio per averci fatto conoscere la verità che è in Cristo Gesù il suo figliolo. E se noi oggi possiamo veramente annunciare la verità è perché l'abbiamo conosciuta. L'abbiamo conosciuta ed essa dimora in noi. Sì, la verità dimora in noi. E noi appunto veramente siamo grati a Dio. Sapete, io quando studio le false dottrine, dico sempre, Signore, grazie. Grazie veramente perché mi hai fatto conoscere la verità. Perché la verità mi ha reso libero, Mi ha reso libero, sono libero in Cristo Gesù per la sua grazia. E invece questi che appunto credono alle menzogne, questi qua sono incatenati, sono in un laccio, non sono liberi. Quelli che dicono le menzogne non sono uomini liberi, sono schiavi del peccato. E già, amano la menzogna e quindi sono schiavi del peccato. Ma noi ringraziamo il Signore che siamo sotto la grazia e il Signore appunto ci ha fatto conoscere la sua verità e noi ci rallegriamo. Ah, quanto ci rallegriamo! Veramente gioiamo alla sua presenza perché veramente ci ha fatto grazia, ci ha voluto fare grazia. E quindi sapete, Da un lato, quando si sentono predicare le false dottrine, insegnare le false dottrine, è chiaro che ci si rattrista, ci si indigna, però vedete, però c'è anche un altro risvolto. Cioè, sei spinto a lodare Dio, Facciamo un esempio. Quanto vi sarà capitato di incontrare i cosiddetti testimoni di Geova, no? Parlarci più o meno a lungo. Ora, che cosa avete notato in queste anime? Che cosa avete notato? Che non conoscono la verità. Sono nelle tenebre, camminano nelle tenebre. E allora, da un lato, avete, chiaramente, vi dispiace perché vi vedete nelle tenebre, però dall'altro avete motivo per dare gloria a Dio. Perché? Perché voi siete nella luce. Loro non conoscono la verità, voi la conoscete e quindi appunto è un motivo questo per ricordarsi di dare gloria a Dio anche per questo, abbondando in azioni di grazia, fratelli nel Signore, abbondando in azioni di grazia, perché questa è la volontà di Dio verso di noi, che noi abbondiamo in azioni di grazia. Abbiamo un Dio grande perché è il solo vero Dio, non c'è altro Dio fuori di Lui. Non c'è qualcuno che può essere equiparato al nostro Dio, Egli è il solo vero Dio, e il solo vero Dio ci ha fatto conoscere la verità. Quindi continuiamo ad amare la verità, a ritenerla in noi e turate la bocca quando vi capita a quelli che insegnano il sonno. Il cosiddetto sonno dell'anima. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.